persona inutile in un destino ridicolo, gira per le strade della città. È il volto segnato dal sonno, le labbra segnate dal vino, e guarda in alto e guarda in basso, e guarda in alto e guarda in basso. Oggi non ci sono l'uomo, solo perché poteva fare, l'ha ucciso con i soldi e con il riso. Gli pulsa il cuore nel collo, mentre guarda in alto e guarda in basso, saltella come una bimbetta. Senza dire nemmeno una parola, si stende sul letto, alle braccia conserte il vestito migliore, come si conviene ad un morto. Come tutti i potenti, potendo offendere, stando ritto e negando. Ho disegnato la bocca sull'unghia, il mio indice è un coccodrillo, e adesso vi mangia, e adesso vi mangia. Ma sono solo morto, torna a casa dalla moglie, entra senza dire nemmeno una parola, si stende sul letto, alle braccia conserte il vestito migliore, si commuove guardando un po'.